טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti sulle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e la serata che va a cominciare è quella dei live con Blu Time Live. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e da quello che mi sembra un po' appesantito, oserei dire, Maurizio Calzavara. Buonasera anche a Maurizio. Buonasera Flavio, un pochettino. Cosa vuoi? Hai cominciato il 22 a mangiare, esatto. Fino a ieri sera. Finalmente una serata dedicata alla dieta, però all'abbondanza in musica. E quindi per far questo abbiamo scelto un artista che è già passato dalle nostre parti per presentare altri suoi lavori, e in questo caso diamo il benvenuto a Giovanni Marton. Buonasera Giovanni. Ma buonasera a voi. Allora, come va? Tutto bene? Sì. Natale sì. È passato bene? Ma così dicono. Così dicono. Così quando ti hanno visto hanno detto hai passato bene il Natale, sì. Bene. Ok, quindi comunque è ancora voce per regalarci le tue belle canzoni in questa serata, anche perché c'è una tappa importante per quanto riguarda la tua carriera musicale, ovvero Ogni sguardo non è perso, questo tuo ultimo lavoro molto, molto bello, lo definiamo noi perché l'abbiamo già ascoltato, e adesso insegneremo anche ai nostri ascoltatori come innanzitutto ascoltarlo e poi anche come entrarne in possesso in maniera fisica o in maniera digitale. Allora, Giovanni Marton non è arrivato da solo, insieme a lui ci sono i suoi eroi, i miei fratelli, sì. I tuoi fratelli di musica, e quindi salutiamo anche Bruno Sponchia. Buonasera. Ciao, Bruno. Grazie. Ciao. Salutiamo anche Davide Lucato. Buonasera a tutti. Allora, rispettivamente a chitarra e basso, mentre Giovanni si dedicherà un po' alle tastiere e un po' alla chitarra. Benissimo, allora, Ogni sguardo non è perso. Questo è già un titolo che parla un po' di introspezione. Noi che ti conosciamo già, Giovanni, abbiamo già avuto modo di parlarne, di questa tua maniera di fare musica nel tuo precedente lavoro circa un anno fa. Adesso Ogni sguardo non è perso, ancora un qualcosa di molto intimo, si può dire. Sì, Ogni sguardo non è perso è un concept album. Decisamente un concept album. Insomma, il tema è stato descritto più volte, rappresenta un percorso. Questo percorso poi che va a articolarsi fra le stagioni, concepite appunto come luogo dell'anima. Diciamo che è un disco che andrebbe appunto spiegato molto a lungo. Abbiamo un'ora e mezza di trasmissione circa, per cui, ecco, abbiamo tempo sia di sentirlo che di spiegarlo. Perché il disco comunque è un disco che prende molte pieghe, ha molte sfumature. Diciamo che è come voi dicevate inizialmente, che dovremmo cercare di comunicare con gli ascoltatori spiegandoci anche un po'. Diciamo che è un disco che io, vedendo anche le reazioni della stampa, così ha avuto diciamo posizioni contrastanti, perché c'è chi è riuscito a capirlo al primo ascolto e chi invece ha avuto molte difficoltà a sentirlo proprio. Allora, sicuramente, permettimi Giovanni, al primo ascolto è difficile, è complesso da capire, però merita per questo giusto un approfondimento. È frutto di un'etichetta importante, Giovanni, la CIOS di Paolo Messere. Paolo Messere ha sempre portato avanti un discorso di qualità decisamente indie, assolutamente indie. Sì, io appunto sono passato alla Sears Recordings, che è una delle più importanti realtà italiane dal punto di vista della musica indipendente. Certamente, assolutamente sì. Diciamo che era stato un taglio anche che mi è andato bene dal punto come di vista. Come mai c'è stato questo taglio, questo allontanamento dall'etichetta di Garbo? Ma innanzitutto perché magari ve lo dico durante la pubblicità. Ok, no, vabbè. Lo dici durante la pubblicità. Maurizio, sai che certe domande... Ma io parlavo dal punto di vista musicale, assolutamente musicale. Dal punto di vista solo musicale. Musicale comunque è stato un passaggio che comunque mi ha rappresentato, perché in questo disco si vede, nei brani più recenti inseriti in questo disco, una sorta di evoluzione verso delle sonorità più indie, più acustiche, per cui entrare in un'etichetta, diciamo, che è conosciuta per essere New Folk indie, esattamente, così, New Folk ha detto una cosa giusta, allora l'ho trovato adatto, quindi il progetto era giusto per questa etichetta qua. Sì, perché è un'etichetta che produce progetti wave, che è più acustici, per cui pensavo di starci dentro tranquillamente. Che devo dire poi per come è andato il CD, diciamo che il CD, io su questo disco ho una bella soddisfazione per una cosa. Di dischi distribuiti dai distributori indipendenti ne escono qualche centinaia ogni anno, poi quelli che sono richiesti dai cataloghi delle grandi catene di negozi si contano sulle dita di una mano. Eh certo. Il mio CD è arrivato alle Feltrinelli, alle Fnac, anche a Media World, mi pare. Sì, vero. Sì, possiamo confermarlo, ne ho visto perlomeno un paio di copie. È vero. Quindi vuol dire che le rimanenti copie erano già andate via. Speriamo. Sì. No, l'avranno rubate. No, quello no, assolutamente. Benissimo, allora Giovanni, che ne dici se iniziamo a far ascoltare qualcosa ai nostri ascoltatori, proprio una traccia per aprire questa conoscenza con il mondo di Giovanni Marton? Allora, in questo caso è proprio un titolo che si intitola, sì, un titolo che è Il tuo mondo non è perso. Noi ce l'ascoltiamo, poi torniamo qui in diretta a commentarlo insieme e a parlare più approfonditamente di questo nuovo lavoro di Giovanni. Buon viaggio. Sotto la logica e i sensi del fare digitale, ma preferisco le emozioni alle onde dei satelliti, preferisco le intuizioni ai raggi cibernetici, perché tutto qui è vero, specialmente ciò che non vedi. Ogni mondo non è perso ed ogni sguardo non è perso. Guarda la città come un cumulo di forme, è come la vostra vita che cresce ma non va oltre, per chi usa la magia solo per giocare ancora, per chi solo non lo è mai, anche quando non ha l'oro. È come un'illusione che mi congela la mente, eppure tu lo sai, oltre la mente non sai niente. È come un'illusione che viene da lontano, ma anche se sei qui, sai, non mi regge la mano. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E così abbiamo cominciato a conoscere l'ultimo lavoro di Giovanni Marton. Si intitola Ogni sguardo non è perso, e questa canzone che ci siamo ascoltati è Il tuo mondo non è perso, e dove Giovanni parte tracciando anche un po' il viaggio di un uomo o dell'umanità, a seconda da che punto si vuole vedere, un uomo con un'astronave che va verso dove non si sa, e forse il quadretto era da vivere in una maniera sicuramente diversa prima del 21 dicembre 2012, dopo assolutamente con più serenità, oserei dire, vero Giovanni? Allora, innanzitutto sì, abbiamo iniziato con questo brano molto energico, però ovviamente il disco ha un percorso. E qui con questa canzone che abbiamo appena ascoltato siamo abbastanza avanti, diciamo. Molto funky al finale, sì. Giovanni. Sì, ricordiamo che questo album è formato da 14 tracce e noi ci siamo ascoltati direttamente da 9, tanto per saltare. Ecco, per chi se adesso lo vuole ascoltare invece dall'inizio alla fine, naturalmente ricordiamo. Beh, cominciamo già con adesso ricordare. Noi nel live adesso seguiamo un po' l'ordine. Sì, benissimo. Ma come mai l'idea di questo arrangiamento molto potente, Giovanni? Ma quel brano lì è un brano che era nato con un arrangiamento elettronico. E poi un giorno eravamo a lavorare a questa cosa al Frequenze Studio. È arrivato Pedro e ha detto: ma sai che Luca Urbani sta facendo il suo disco nuovo tutto quanto in acustico? E mi ha detto: sarà la volta che bisogna fare tutto in acustico. Proviamo a rifare tutte le batterie e le chitarre e la facciamo tutto anziché con i sintetizzatori e le drum machine, bello spedito. Abbiamo fatto i bassi e le chitarre un po' funky. È venuto bene, dai. Ci piaceva, è venuto bene. Sì, assolutamente, è proprio un inizio funky, poi diciamo un continuo un po' meno funky, forse un po' più verso la new wave in questo caso, oserei dire. È questa spada di Damocle che mi porto dietro, questa cosa della new wave. Sì, è mica negativa la new wave, Giovanni. No, è positiva. Sì, però assolutamente viviamolo come però, positivo. Però ti sta stretta ormai, non ce la fai più. Sta stretta, anche perché è da dire che qualcuno, parlando di Giovanni Martone e della sua musica, ha detto che Giovanni definisce la sua musica molto in maniera molto particolare. Quindi io ho letto bene, cantautorato fantascientifico. Te l'hanno messa addosso o te la sei? No, questa cosa qui l'hanno tratta dalla mia pagina di Facebook. Ah, vedi, sì. E questa cosa qui è una cosa che io ho voluto darmi come aggettivo per definire bene questo album. Diciamo che questa cosa qui poi l'ho spiegata molto su un'intervista su Rockit che ho fatto qualche settimana fa. E ne abbiamo riparlato anche su Rockerilla, sull'intervista che esce a gennaio. E praticamente questo tema qui è un tema che secondo me andrebbe visto, preso un attimo con le pinze questo termine, perché è vero che da un certo punto in poi del disco questo tema della fantascienza entra in maniera muscolare quando si comincia a parlare di nuovi sistemi stellari, tutti questi temi qui, però a mio parere presenta anche prima, perché quando narriamo Idillio Borghese non è altro che la descrizione di una fotografia che secondo me è entrata proprio nell'immaginario collettivo dei film di Spielberg degli anni 80 e 90. Se pensi a Dove arriva il Tio, che cosa fanno i Goonies, nasce tutto da quella borghesia quasi immacolata di quella periferia che lascia sempre quel senso di nostalgia quando la vedi. Per cui anche descrivere semplicemente quel dipinto lì, quell'immagine lì, fa sempre parte di questo voler essere in atmosfere fantascientifiche dal punto di vista cinematografico, ovviamente. Per cui io tento con le canzoni di portare anche molti dettagli proprio per cercare di andare a dipingere i dischi in maniera scenografica. Quindi l'approccio cinematografico è fondamentale, sì, assolutamente nella fondamentale. Mia composizione è sempre stato fondamentale, da sempre. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Giovanni Marton. Ogni sguardo non è perso, questo è il titolo del suo nuovo lavoro. Adesso, visto che Giovanni è accompagnato anche dalla sua chitarra, invitiamo anche lei a suonare, a farci compagnia. Cosa ci ascoltiamo in versione acustica, Giovanni? Suoniamo la prima traccia del disco. Benissimo, eccoli qua. Lì sotto l'albero più grande, in attesa di un altro temporale dell'estate, indossi la seta bianca ormai bagnata sul tuo corpo, leggera come fosse neve. Neve le mie mani di fuoco, evidentemente inconiugabili, e tu resti lì ad aspettare la tua pioggia, tanto il mondo non si curerà se il fuoco farà sciogliere la neve e quel freddo della sedicente normalità. Nel viale alberato, nel quartiere dove i bambini giocano e corrono, nelle strade oltre ai biscotti per i nuovi vicini, nella casa accanto l'amore fa gridare di piacere, eppure questo non porterà mai il ghiaccio a tramutarsi in fuoco, ma si scioglierà in un altro temporale dell'estate. Resta in dono una rosa come le margherite raccolte nelle prime vacanze estive, nelle prime vacanze estive. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato la prima versione in acustico di Giovanni Marton, si intitola Tormenta estiva, detratto dal suo nuovo lavoro Ogni sguardo non è perso. Allora, come si diceva prima con Giovanni, mentre la chitarra si è fatta male adesso, sì. Sentito che è andato a sbattere da qualche parte. Sai, mi duole sempre molto quando sento uno strumento musicale. Allora, vabbè, anche per lei è stata una tormenta questo passaggio, passaggio di mano. Allora, tormenta estiva, tu prima, Giovanni, dicevi questo mio lavoro è un concept album e parla di varie stagioni. Stagioni che non sono da intendere solo da un punto di vista le quattro stagioni intese come effetto temporale, ma sono anche le stagioni del cuore, quindi vari momenti, varie interpretazioni delle proprie emozioni in questo caso. Sì, di sicuro il disco Cioè, mi capitano delle scene assurde. No, vedo che c'è momenti di hilarità. Ecco qua. Stiamo parlando di una cosa comunque, seria. Insomma. Ragazzi, cioè, moderatevi. No, sta mettendo solo a posto il capotasto. Non ha fatto niente di male. Allora, salutiamo ancora una volta i ragazzi che ti hanno accompagnato. Così diamo un nome e un cognome alle persone che ti hanno disturbato in questo momento. Quindi, Bruno e Davide. Sì, sì, l'ho disturbato io. Ecco qua. Benissimo. Allora comunque, adesso entriamo ad approfondire questo tema. Allora, le stagioni. Sì. Le stagioni, allora, sappiamo che possiamo andare, non lo so, quanto indietro nel tempo per vedere come le stagioni siano metafora della vita dell'uomo, metafora anche dei tempi dell'evoluzione dell'umanità, eccetera, eccetera. In questo disco si trattano le stagioni innanzitutto per gli assist che danno alla poetica in questo tipo di narrazione dettagliata. E poi anche perché questo disco rappresenta come quasi un percorso verso un'illuminazione finale. E questo percorso passa attraverso alcune fasi, si passa all'inizio dalla narrazione del proprio cortile fino a spingersi al di fuori delle capacità terrene. Quindi l'evolversi, tutto questo messo in paragone all'evolversi del mutare del tempo, semplicemente crea della possibilità di giocare metafore, fare paragoni, per cui di dare una poeticità ai contenuti del disco. I critici ti appiccicano sempre l'immagine della vicinanza di Blue Vertigo, ma finalmente tu hai detto: mi sono allontanato dall'immagine della vicinanza di Blue Vertigo. Questi critici, quando li incontri, il Morgan delicato, il Morgan delicato, ma ti sei allontanato? Come direbbe Sgarbi, mandiamoli in pensione. Ti sei allontanato di Blue Vertigo? Battiato no, forse, ma Blue Vertigo sì, secondo me. Cosa dici, Giovanni? Allontanato, cioè allora, hai preso la tua strada, chiaramente. Ma sì, allora io diciamo che faccio musica da sempre. Ho fatto la prima uscita importante a 19-20 anni, credo. Ho lavorato con tanta gente che era di quel giro lì, perché a me piacevano tanto i Blue Vertigo. Poi, ora, io ho imparato molto da quella lezione. Certo che io, insomma, mi sto costruendo qualcosa di appunto, mio. Appunto. Assolutamente, penso che questa sia una. E poi, insomma, specialmente per chi lavora veramente con la musica in maniera artigianale come me, facendo produzione. Non c'è niente contro il Blue Vertigo, io personalmente, no, assolutamente. Ma neanch'io, cioè, però è giusto, il tuo percorso è diverso. Però, almeno adesso. Ma anche, appunto, dicevo, lavorando come me, così è chiaro che poi si ha anche voglia di cimentarsi con altre sfide, perché io, anche, appunto, come arrangiatore, come musicista. Ho anche voglia di provare a fare delle cose diverse, le provo e poi arrivo alle mie sintesi, sento quello che mi piace fare. Ora ti dico, non so se ci saranno sintetizzatori nel prossimo album, non credo. Ti stai lentamente portando a un progetto più cantautorale che non elettropop come una volta, praticamente. Leggermente diverso. Sì, la strada più è quella. Cantautorale, ma non dal punto di vista italiano del termine. Cioè, in che punto di vista? Adesso spieghiamo bene ai nostri ascoltatori. Più cantautorale. Ti avvicini al discorso inglese, a un David Sylvian, tra parentesi, possiamo dire questo? No, a me piace la scuola del cantautorato californiano, Jack Johnson in avanti. Gli inglesi non li ami? No. Perfettamente. Secondo me qualcosa di inglese c'è, però. Sì, vabbè, però... Ora cerco di fare la musica che mi dà serenità, ed è quella. Certo. Allora, abbiamo un altro pezzo da ascoltare da questo Ogni Sguardo Non È Perso, ma prima volevo chiedere a Giovanni Marton il perché di questo sottotitolo. C'è un sottotitolo, dopo Ogni Sguardo Non È Perso c'è scritto in piccolino Formulario di Estetica Stagionale, quindi un po' la ripresa di quello che spiegavi tu prima, Giovanni. Ma quanto romantico è la figura dell'alchimista? È un formulario, un libro con delle pratiche, con delle regole che sono magari applicabili a vari contesti. Questo lavoro, quasi come fosse un manuale, può anche essere letto e usufruito da ciascuno di noi nelle proprie esperienze. Benissimo, allora ci ascoltiamo un altro pezzo. Cosa hai scelto da farci ascoltare, Giovanni? Non mi ricordo la scaletta. Allora ti vengo in aiuto io, cioè contro l'ordine. Contro l'ordine, sarà sì. Il brano sì. Di cui faremo il video che uscirà a gennaio. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo anche a parlare, perché no, anche un po' del video. È così freddo e buio che sento di dover piangere ancora un po', ancora un po'. Non pensavo che sarei stato dietro a un muro col filo spinato, proprio qui negli USA. È cominciato tutto quando mi hanno preso al braccio, quell'impianto doveva servire alla mia sicurezza. Ma poi mi sentì come ammalato di schiavitù, e man mano capì sempre più le cose. Le medicine le fanno loro, i giornali ce li hanno loro, pure i soldi li stampano loro, e quindi nel profitto le malattie le inventano loro, le notizie le danno loro, i bisogni li creano loro, e la tua vita serve a costruire piramidi. Poi anche il colore si spegnerà come l'umanità nelle città, e i popoli umiliati, offesi, gli uomini saranno coltivati, e non ci saranno più persone nelle piazze ma soltanto banche e colonne di esseri umani in fila verso il lavoro, roboticamente accese. Forse smetterai di credere ai mass media solamente quando la NATO avrà bombardato anche casa tua, e prenderemo le biciclette per andare a cercare il cibo fra zone completamente desertificate e radioattive. Perché questa è una guerra antica, è vecchia più dell'uomo, e loro hanno già le armate e gli eserciti spiegati. Sono dei truffatori con un piano preparato, organizzato, che la finanza serve a rubarti i diritti e lo Stato. Poi anche il colore si spegnerà come l'umanità nelle città, e i popoli umiliati, offesi, gli uomini saranno coltivati, e non ci saranno più persone nelle piazze ma soltanto banche e colonne di esseri umani in fila verso il lavoro, roboticamente accese. E se alzi lo sguardo, cosa vedi? Se il mondo è già stato intrappolato dal cielo reticolato, oppure credi nella manifestazione senza sapere chi finanzia la tua finta ribellione? Oh, Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Siete sempre con Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale che si chiama Blu Time Live. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, con me Maurizio Calzavara, con noi c'è Giovanni Marton accompagnato da Bruno Sponchi e Davide Lucato in questa serata per proporci la musica dell'ultimo lavoro di Giovanni Marton intitolato Ogni sguardo non è perso. E allora, in questa canzone contro l'ordine era evidente, si parlava di proprio di essere contro l'ordinamento attuale, ritenendo questo una fase molto molto contro, diciamo, la personalità di ciascuno, però all'interno di un ordine dove i giornali sono tutti di uno, le farmacie dipendono tutte dall'altro, insomma non ne va bene una. Ma questo qui è il brano, diciamo, in cui in un certo senso il disco arriva al suo apice, perché dopo aver narrato in idillio borghese come si è distrutto l'idillio dell'umanità, nella traccia numero 8 si arriva a definirne il perché. La traccia numero 8 serve, contro l'ordine serve a questo, a dare alcune risposte, dire, insomma, poi bisogna anche saper leggere un po' fra le righe. È un brano molto esplicito, secondo me, pieno di riferimenti. Sì, tu, ad esempio, citi molto anche USA in questo caso, no? Quindi gli Stati Uniti d'America. Ti trovavi lì oppure è un rimando a qualcosa? Allora, diciamo che in questo disco parlo in prima persona, perché si tratta di questo protagonista in cui mi immedesimo, che è una persona in cui in un futuro, in una futura dittatura di stampo orwelliana, si trova rinchiusa in un campo di concentramento dell'Occidente, diciamo. Che tra l'altro di cui è disseminato agli Stati Uniti, si chiamano campi FIMA, se qualcuno vuole interessarsi, non si sa cosa servono, ma... Ecco, adesso prendiamo nota, Maurizio, perché naturalmente magari siamo preparati in musica, ma un po' meno esattamente di queste storie. Vicende. Comunque ne prendiamo assolutamente. Diciamo, questo disco qui, questo brano semplicemente traccia un po' i contorni dei problemi del capitalismo, anche della morale, secondo me, del modernismo. E sono tutti dei tratti che servono a spiegare, insomma, cosa ha dissipato quello che c'era e che poteva essere. L'hai colorato con un arrangiamento molto accattivante, molto che prende immediatamente, un'elettronica molto tenue, non, cioè messa in una certa maniera che non possa prevaricare, secondo me. È stato un arrangiamento complesso questo. Dimmi, come l'idea come è venuta praticamente, se ti ricordi. Dopo mille tentativi, questo brano qui è stato arrangiato prendendo come batteria dei campionamenti delle batterie vere degli altri dischi. Per cui la batteria vera, ma l'ho smontata e ricomposta per fare questo brano. Questo effetto praticamente. Le batterie sono effettate come tanti di questi dischi a mo' degli anni 80, con i rullantoni, con i riverberi. Vari strumenti acustici, chitarre, basso, chitarre elettriche. E poi si innescano degli arrangiamenti di botta e risposta fra archi, fiati e metallofoni. Tutto questo arricchito da delle groove, diciamo, tratte da programmazioni sintetiche di Drum Machine. Ho capito. E dei pad, molte tastiere. Ma diventa molto, molto accogliente per l'ascolto, per l'udito. Entra immediatamente, secondo me. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione è ascoltabile sia attraverso le frequenze tradizionali, ma anche tramite internet al nostro indirizzo www.bluradioveneto.it, cliccando all'interno della notizia riservata a Giovanni Marton e guardando il trafiletto con scritto Ascolta la diretta. Poi nei prossimi giorni sarà gestita anche la parte del podcast, quindi per entrare nei nostri archivi sonori, sempre la solita maniera, nella notizia riservata a Giovanni per l'appunto, basta andare lì e ascoltare e scaricare la trasmissione. Poi naturalmente Ricordiamo che sono scattate anche alcune foto dove si potrà rivivere un po' quella che è la serata di questa sera, appunto per la presentazione dell'album Ogni sguardo non è perso. Giovanni, tu hai anche un sito internet da darci come riferimento? Sì, giovannimarton.com, e lì trovate tutto, insomma. Quindi troviamo anche tutti i modi per entrare in possesso del disco, anche se siamo un po' pigri e non vogliamo andare nei negozi. Sì, lo si può ultimamente comprare, si compra tutto su internet. Si può comprare su iTunes, su Amazon, si può ordinare il CD direttamente dal sito del distributore, trovate il link sul sito. Uh-huh. E sul sito ci sono anche i link per ordinare il disco dalla Feltrinelli o dalla Fnac. Insomma, ci sono tutti i link possibili e immaginabili per comprare il disco, basta solo volerlo. Basta solo volerlo, giustamente. E diciamo che ultimamente forse si sono, come dire, gli ascoltatori si sono fatti un po' di coraggio in più nelle festività e quindi hanno regalato qualche disco in più. Perlomeno sembra, non so ancora, le statistiche non sono uscite. Dicono di sì, ecco, benissimo. CD e libri sono quelli che hanno ottenuto. Posso cambiare macchina? Sì, è vero, sicuramente ti puoi impegnare con il debito a questo punto. Vabbè, allora Giovanni, ancora dei pezzi in acustico. In questo caso direi che potremo ascoltarci L'ultimo sole. Sì, ed è il brano che abbiamo fatto al Festival Show quest'estate. Ed è stato il primo singolo per le radio. One, two, three, four. A chi racconteremo la nostra storia? Se ogni giorno si alza un muro, vogliono convincerci che siamo perduti come loro, ma tu sei come un fiore che si apre quando è ora, ed il sole che a dire il vero noi odiamo. Cosa faremo di noi quando porta anche l'ultima parola? Intanto vado via da questo, vado via per questo, vado via con questo ultimo sole. Non crediamo in quello che verrà, se staremo assieme io lo so già, e chi non mi crede non ha vergogna d'essere povero dentro e fuori. Ma tu sei come un fiore che si apre quando è ora, ed il sole che a dir il vero noi odiamo. Cosa fare E abbiamo ascoltato anche Ultimo Sole, l'ultimo sole tratto dal lavoro di Giovanni Marton, si intitola Ogni sguardo non è perso, il sottotitolo Formulario di estetica stagionale. Allora Giovanni, brevemente, anche questo L'ultimo sole sembra appunto una parte della stagione, come tu dicevi si sta parlando di un album complesso dove tutte le tracce sono legate tra loro. Si parte dalla tormenta estiva che abbiamo ascoltato adesso, la traccia numero 2 è questo ultimo sole, forse un ultimo sole che si vuole godere in estate prima che arrivi l'autunno, prima che tutti si richiudono nelle proprie case. Certo, questo è il tuo punto di vista, sono veri tutti, è un formulario, basta leggerlo, ognuno si trova la sua verità. Quindi è come quella specie di libro degli indovinelli, no? Dove tu ti fai la domanda e poi trovi la risposta scritta all'interno di quelle 500 pagine, no? Quindi ognuno traduce alla propria maniera quella che può venire fuori. Naturalmente Giovanni ci dà a disposizione anche all'interno del suo CD anche il libricino dove si possono seguire i testi, che sono delle vere e proprie poesie in musica. Se leggermente collegato al disco precedente, questo uso degli synth abbastanza corposo, senza però danneggiare l'intelaiatura del pezzo, gli synth si sentono in questo pezzo? Sì, non in questo più di tanto. Cioè, ma si sente in ogni caso, c'è un certo collegamento col disco precedente forse? Sì, questo disco qui c'ha di molto vicino al disco precedente il ruolo della batteria, perché è molto pompata, no? Con poco overhead. Spiega a quelli che non sanno cosa è l'overhead, in termini molto semplici. Diciamo che è come per dire che i microfoni sono stati regolati nella registrazione della batteria, ho capito. Come si faceva 20 anni fa, per dire, quindi con poco ambiente naturale, aggiungendogliene molto poi in digitale di reverbero, ovviamente si ha questa batteria molto pompata. Sì. Ma la batteria, voglio capire, è la batteria tradizionale quella di pelle, diciamo, sì, e legno, o è quella elettronica? Quella tradizionale, sì. Quella tradizionale, poi ci ho messo le mani io al computer, insomma. Certo, come... certo. L'hai effettata praticamente, a virgolette, insomma. Sì. L'hai sistemata, ecco, come si vuole. No, sì, resa... Si parla in questi casi di fare il suono, io... L'ho costruito così, insomma. Hai costruito proprio di veri e propri suoni, hai allargato certe cose a cui aveva cominciato a costruire, gli allargate fino per trovare determinati stimoli anche musicali. Sì, diciamo che molte cose si possono fare, basta avere pazienza di mettersi lì, poi anche certosina pazienza, sì, pardon. Io penso che per mixare quest'album ho sfiorato l'esaurimento nervoso. Perfetto, ore. Ma d'altronde... 2 mesi, penso. Diciamo. Come avranno capito anche i nostri ascoltatori, stiamo ascoltando un disco che, invitando anche l'ascolto in cuffia, si riescono ad assaporare tutti quanti i contorni che Giovanni ha voluto dare all'interno di ognuna di queste canzoni. Allora, un breve cappello per introdurre la prossima canzone, Idillio Borghese. C'è un featuring molto importante all'interno di questo disco, di un amico, di un collaboratore, di un grande musicista che tutti gli ascoltatori più attenti ricorderanno ancora nel 2002 al Festival di Sanremo. C'era un gruppo, La Sintesi, e lui ne faceva parte. Stiamo parlando di Lele Battista. Allora... come mai questa collaborazione con Lele? Ma perché sapete che io sono quello della New Wave dei Blue Vertigo. Sì, lo sappiamo. Sì. Allora l'etichetta non deve essere quella, assolutamente. Lele è un amico del giro, diciamo, di musicisti con cui ho iniziato a lavorare, per cui avevo una grande stima per lui. Io al liceo, mi ricordo che a 16 anni andavo a scuola tutto vestito di nero e con lui in cuffia, insomma. Quindi poi è stata una bella esperienza conoscerlo, lavorarci. Abbiamo fatto un concerto assieme ad ottobre a New Age. E niente, insomma, abbiamo collaborato. Questo brano è stato molto soddisfacente per entrambi. Lui, insomma, voleva cantare un pezzettino, e poi man mano che ci lavoravamo sentiva la canzone, ci cantava sempre di più anche lui, insomma si è fatto prendere. Tante cose, concerto che tu avevi fatto oltre che con Lelio Battista, anche con Violante Placido. Sì, li abbiamo noi aperto quella data lì al New Age, e poi ovviamente insomma è stato anche un modo per rivedersi e fargli sentire anche appunto come viene l'idillio dal vivo. Sì, è stata un'esperienza carina anche quella. Bene, allora vediamo un'ulteriore esperienza carina, quella di far ascoltare i nostri ascoltatori l'idillio borghese in versione acustica, quindi con chitarra, basso, tastiere, il basso suonato da Davide Lucato, Bruno Sponchia alla chitarra, Giovanni Marton voce e tastiere. Ecco qua, idillio borghese. Mi mancano gli appuntamenti sotto il coprifuoco, nelle vie lì vicino alle nostre case. Mi mancano le emozioni delle novità, i respiri, il caldo e la tachicardia. Sana borghesia, e mi chiedo quale sia la provincia del mio cuore. Come dimenticare le occasioni di festa? Come dimenticare il verde della nostra Alabama, come dimenticare tante nottate segrete e i corpi di tutti noi abbronzati dalle stelle, e non rimane neanche l'ombra di questa sana borghesia. Quale sia la provincia del mio cuore? Cementificare i prati verdi e i fiori di primavera, ecco un bel modo per inaridire le anime. Eppure ricordo sguardo che incrociavo con Sofì quando non andavamo a scuola, e non rimane neanche l'ombra di questa sana borghesia, e mi chiedo quale sia la provincia del mio Blue Time Live. Live. Un'atmosfera molto intensa, quella che ci ha regalato Giovanni Marton. Il suo ultimo lavoro si intitola Ogni sguardo non è perso. Abbiamo ascoltato Idillio Borghese, appunto, nella versione acustica, mentre prima avevamo descritto la collaborazione con Lele Battista, e vale proprio la pena ascoltare anche in versione da disco questo pezzo per capirne tutte le sonorità speciali. Una domanda immediata a Giovanni Marton: alla fine di questo pezzo, nel tuo libricino, scrivi opera compiuta incompiuta. Sì, quella scritta non è lì perché alla fine di questo pezzo, no, perché cercavamo un buco dove metterla. Perché è un disco lunghissimo, c'erano dei limiti anche sulla stampa del libretto, insomma. E nella prima pagina, che è lì, insomma, quando apri, c'è quella scritta. Opera compiuta incompiuta significa che questo disco in effetti è un disco finito, però è un disco così, quasi come se fosse in perenne evoluzione. È stato un disco eterno a cui ho cominciato a lavorare da tantissimo tempo, che ho sempre rimandato, cui ho aggiunto cose, tante cose. Ci sono tante cose che io adesso, riascoltando, percepisco come ingenuità dei miei lavori di 2 o 3 anni fa, ad esempio, che sono nel disco. Non ho voluto rimetterci le mani perché per cercare di renderlo più sincero possibile, insomma. Doveva fotografare quel momento là, praticamente. Sì. Anche perché poi, diciamo, questo incompiuto ti porta a darsi un'ulteriore promessa, ovvero che tra un anno ci rivediamo. Esatto. Con il secondo tempo di Ogni ragazzi, sguardo non è perso. Ne abbiamo fatto due parole durante la pubblicità su quello che accadrà prossimamente. Non diciamo assolutamente nulla in diretta radio. Però... fra un anno ci rivediamo con una cosa che scioccherà tutti. Bene, questo è molto positivo. Benissimo, quindi siamo già preoccupati in partenza, prenotiamo già la serata libera per Giovanni Marton. Allora, che dire ancora? Beh, parliamo della parliamo un momento, Flavio, un secondo. Sì, l'ottimo prego. Critico, a proposito di questo pezzo, ha scritto ottimo esempio di artigianato pop. Ha perfettamente ragione, non so se sei d'accordo. Non è riduttivo l'artigianato pop, è una cosa positiva. Eh beh, certo, io mi occupo della musica proprio come fosse un artigiano. Appunto. A me piace stare lì a costruire. Mettere le mani sui cavi, sugli strumenti, proprio... Poi tu che ti stai anche laureando in architettura, diciamo, lo descriviamo anche come un qualcosa, un'arte, diciamo, una costruzione in questo caso. Ma io paragoni con l'architettura mi vengono spesso, però più che altro per altri argomenti, tipo su altri temi, diciamo, relativi alla musica. A me viene da dire, ad esempio, che spesso parlando, discutendo così, trovo che un paragone bello con l'architettura possa essere relativo alla stabilità degli edifici. Il fatto che uno non può semplicemente disegnare ciò che trova bello, ma per realizzarlo deve anche riuscire a farlo stare in piedi. Trovo che con le canzoni il paragone sia perfetto, perché se una canzone sta in piedi vuol dire che è ben fatta. Non basta essere ispirato, certo, avere un briciolo di talento iniziale, ma bisogna poi con gli anni e con l'umiltà di sapersi anche affidare ad altri, diciamo, riuscire a poi farla stare in piedi. Anche perché poi diventano più belle le canzoni, esatto, quando ci metti le mani per renderle giuste. Diciamo che ci vuole un'ottima fondamenta in questo caso. Sì, bisogna semplicemente metterci un po' di tempo per dare il tempo al proprio stile di evolversi, e non bisogna avere l'arroganza di partire fin da subito a dire che le canzoni sono perfette. E poi hai parlato di collaborazione te in questo caso, cioè è importante collaborare. Hai parlato di questo. Ma sì, perché io comunque produco qualche artista e, diciamo, sono molto appassionato in quello che faccio e spesso litigo con con gli artisti che produci. Come ad esempio il chitarrista Hai litigato con il chitarrista in questo momento. Diciamo che c'è un vivo scambio di opinioni. Esattamente, no? Ma è tutto live, tutto live. Assoluta, cosa dici? Sì, no, litighiamo spesso, è vero. Sì, ma è bene. Ma litigare è creativo sempre. Sì, appunto, litigare è creativo, sono litigate costruttive. Appunto, sì, certo, l'importante è tenersi a distanza e non arrivare ad alzezza mano o braccio, no? Quindi, quello mai. Al massimo il manico della chitarra potrebbe succedere, però con le mani mai. Benissimo. No, volevo parlare un attimino, prima di passare alla prossima canzone, di quella tua, della copertina, che vede un ritratto. Un tuo ritratto allo specchio. Tu tu ti stai guardando, però in quel momento non ti vedi assolutamente nitidamente. C'è un qualcosa che poi nel corso, nel corso del libricino vieni a, come dire, a pulire un po' questo tuo specchio. Sì, quello specchio opaco ha una bella immagine, diciamo che è un disco che riflette me stesso nei contorni, ecco, magari significa questo, no? A tratti non nitido. Questo significa che anche il mio essere all'interno del disco è presente come stencil, come dare la forma, ma poi ciò che viene messo all'interno dei contorni appunto è indicativo, relativo all'ascoltatore. Bene, allora, visto che abbiamo parlato di ascoltatore, facciamo ascoltare ai nostri carissimi amici in ascolto o ancora un qualcosa dal tuo nuovo lavoro. Questa volta diamo spazio alla traccia numero 11 e quindi Un luogo nuovo. Eccolo qua. Troverò altri spazi e meccanismi, nuovi mari dove poter sparire, ricordare quale sia la mia versione, la mia visione, come nel mio tramonto non ci sia il sole, poi altre sensazioni mi faranno naufragare in spazi dove non serve capire quale sia l'onore, dove sia il perdono. Altri meccanismi sono altri meccanismi. Ogni sensazione identifica un luogo nuovo. Ma poi come puoi distinguerne un senso a senso? Sempre vicina, da quando la terra è nostra, non siamo mai lontani, da quando il mondo è distante, poi altre sensazioni mi faranno naufragare in spazi dove non serve capire quale sia l'orrore di altre dimensioni, quale sia l'errore di nuovi mondi. Ogni sensazione identifica un luogo nuovo, ma poi come puoi distinguerne un senso a senso? Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per un attimo pensavo di aver perso Giovanni. No, no. Che corsa che si fanno durante la pubblicità. È vero, vero. Mentre sta andando il disco, naturalmente noi si continua con la piacevole conversazione, perché vorremmo sempre sapere qualcosa di più in tema musicale, quindi bisognerebbe tenere sempre i microfoni aperti anche quando il disco sta andando, per capire quanto ci stiamo dicendo. Allora, un luogo nuovo, questo un altro pezzo tratto dall'album di Giovanni Marton, Ogni sguardo non è perso, formulario di estetica stagionale. Allora, una domanda sempre legata al libretto. Vedo che alla fine del libro tu citi un passo importante tratto dalle affinità elettive, ovvero le Walferzandschafte, che sono è un romanzo di Goethe. Come mai hai scelto questo pezzo in finale? Cosa rappresenta? Diciamo che ricordiamo che le affinità elettive parla all'inizio di quello che è la vita tranquilla di Edoardo e Carlotta. Come mai hai fatto proprio questa parte dove dice balzava nella barca e remava? Ma io ho trovato quel passo, diciamo, molto, non so, quasi una bella sintesi di tutto il lavoro. Questa qui però è la lettura mia, ovviamente, magari ognuno poi può dare altre, può suscitare qualcos'altro, ma quel piccolo passo l'ho sentito quasi come sintesi di tutto il lavoro, perché c'ha una poetica così elevata e c'ha dei contenuti così adatti nel narrare al tempo stesso i sentimenti e questa fantasia, questa voglia di andarsene, eccetera, che io ho trovato quelle poche righe come esaurienti di 14 canzoni. La grandezza degli artisti, tra l'altro, si vede dal dono della sintesi. Goethe ci ha messo poche frasi, ci ha messo 14 canzoni, giustamente. Sì, giusto. Perfetto, perché di solito un concept album parte con un doppio CD, no? Perché ci sono sempre tante cose da dire. Ma io volevo fare il doppio CD, ma non l'ho lasciato. Troppo lungo, quei tempi che corrono, non si può, vero? Benissimo, quindi. È vero, è una battuta che volevi fare il doppio CD, sì, è proprio questo. Volevo fare il doppio CD da 20 canzoni, però mi hanno detto poi i giornalisti non l'ascoltano. Beh, questo può essere vero, diciamo, non tutti i giornalisti e non tutti i critici ascoltano il disco fino alla fine, ma molte volte si limitano ad ascoltare le prime tre o quattro canzoni, dove pensano che l'artista abbia, diciamo, racchiuso, diciamo, il fulcro, la parte importante del CD, mentre pensano sempre di più e senza ragione molte volte che il resto sia solo un riempitivo, no? Sì, belli becchi subito questi, insomma. In ogni caso, sì, un disco come il tuo si deve ascoltare tutto dall'inizio alla fine, non si può sentire due o tre pezzi, secondo me. Non si può. È proprio il progetto che è così, quindi è assurdo. Cioè, se vuoi farti un'idea delle capacità di fare canzoni, potrei indicarti io due o tre brani scelti, sparpagliati dal disco. Ti potrei dire ascolta L'ultimo sole, L'idillio e, che ne so, Contro l'ordine, per dire. Però ti fai un'idea magari mia come cantautore con un brano, per dire. Invece del disco ho ascoltato assolutamente tutto. Ma hai avuto difficoltà più a fare un pezzo oppure un insieme unico di cose, di costruzioni? Come, scusa? No, hai avuto più difficoltà a fare certi pezzi oppure è stato un assieme? Ma diciamo che i pezzi nascono ovviamente in maniera molto sparpagliata, perché è stato un lavoro molto lungo, però secondo me i fili conduttori vengono e quei fili conduttori sui testi ci sono. Poi sì, qualcuno ha impiegato più tempo, qualcun altro di meno, però sì, il concept album non è stata una cosa forzata. Vedevo che i testi, anche a distanza di mesi o di anni, nascevano con una continuità. E poi quando ho cominciato a cambiare completamente il mio modo di far musica, ho sigillato tutto quello che facevo prima in questo album, ecco. Le tue composizioni, faccio una domanda molto, molto diretta, però te l'avranno fatta chissà in quanti nel corso della tua carriera. Dove le costruisci le canzoni? Preferisci il divano piuttosto che la camera da letto, il tuo studio di registrazione? Dove nascono? Sul muretto di casa? variabile. Vedo che sta cercando con la memoria e con gli occhi di ricordare dove sono nate più canzoni. Forse volevi dire il bagno, non so, molti hanno ammesso allora di scrivere anche questo grande sogno. Anche John Lennon ha ammesso. Anche John Lennon, è stata sì, più di una volta. Sì. No, diciamo che io ho sempre questo problema di pensare tantissimo. A me le canzoni dipende. Allora, prima mi nascevano molto suonando, insomma, d'impulso in studio specialmente. Ora che riesco a fare una cosa molto difficile, cioè avendo, anche se sono giovane, comunque alle spalle molti anni di attività di arrangiatore, riesco davvero a farmi un'idea precisa di come vengono le canzoni solo immaginandole, di cosa si può fare, cosa non si può fare. Per cui io, prima di registrare una canzone, passo qualche mese a pensarla e a suonarmela con la chitarra. Ogni settimana si modifica qualcosa finché poi non mi rendo conto che è finita e so già come registrarla, come farla, perché questa evoluzione avviene in moltissimi luoghi. Quando mi viene da pensarci, anche camminando così. Certo, ma come fai a fissare quelle che sono le idee che ti vengono? Perché poi calcola che se io mi leggo un testo di una canzone una volta, poi lo so a memoria. Un'idea quando mi viene, così come i testi, poi li scrivo per sicurezza, ma sì, blocco tutto. No, ti pensavo col registratorino a cantare oppure a scrivere. Delle volte lo faccio un po' per sicurezza, ma non ce n'è bisogno. Cioè, ce proprio, no, questa cosa qua per fortuna non mi manca, che è la memoria, mi stanno... No, non volevamo dubitare assolutamente della tua capacità. Della tua, il discorso di Monza, lo studio di Monza, cosa ha influito a... È stato importante, è stato solamente un passaggio, visto che tu avevi già in mente tutto quello che dovevi fare? È stata... Visto che Monza, parliamo perché Monza è stato importante, uno studio importante. Sì, ma è stata un'esperienza che più che altro mi ha portato a realizzare quello che è stato il lavoro precedente. Anche se per assurdo qui ci sono molte canzoni fatte a Monza, nel disco precedente solo due. Andare a lavorare lì mi ha servito a concretizzare il primo EP, a costruirti praticamente. Sì, anche insomma a imparare anche tante cose, perché sono stato, insomma, sono andato avanti qualche mese, andare su e giù, per cui è un'esperienza che si è evoluta. Ora ci sono in questo disco molte tracce registrate lì e sono, se vogliamo, quelle vecchie, quelle vecchie del disco, ecco, quelle più polvose. Quelli che hai superato adesso praticamente. Sì, decisamente, ma è normale, insomma, non è che si rinnega qualcosa o non si è più fieri di cosa si è fatto, semplicemente, ovviamente, come tutti, si cambia, si cresce, si va avanti. Benissimo. E poi soprattutto, se con questi due dischi non ho ancora vinto Sanremo, vuol dire che devo cambiare qualcosa. No, vuol dire che stai andando perfettamente, che non hai bisogno di Sanremo, ecco, diciamola così. E mentre stanno fervendo i preparativi per Sanremo, noi continuiamo ad ascoltare. Quando è uscita la scaletta dei primi, non mi ricordo quanti erano i giovani selezionati, 60, no? C'erano dei nomi tanto belli, hanno fatto un bel articolo su Rockit con tutti i nomi. E c'erano proprio dei nomi inaspettati, giovani, indipendenti. E non è rimasto nessuno. Ma c'è rimasto Marta sui tubi, però. Vabbè, perché? Marta sui tubi. Non è così conosciuto come tu pensi. Vabbè, ma allora Marta sui tubi non fa testo, perché sono comunque un editore multinazionale. Cioè. Sono d'accordo. Io non guardo dal punto di vista discografico, dal punto di vista della notorietà. Però è interessante vedere che anche gente molto che ha molto seguito, che però ha solo l'etichetta indipendente, non... No, non passa quel muro di Roma. Dipende da Fazio e dal direttore artistico. Forse anche da molti altri meccanismi, delle famose major che entrano, non vogliono... Ecco, qualcuno tipo Davide fa segno che c'è sempre un discorso di money. Come cantavano anche Pink però Floyd. Siamo arrivati nella pagina più divertente del tracollo della discografia adesso. Perché abbiamo sentito anche un inizio di Money, no? che faceva più o meno così. Benissimo. Ok, allora continuiamo con l'ascolto acustico del lavoro di Giovanni Marton. Ancora da Ogni sguardo non è perso, un'altra canzone, questa volta Sognare la serenità. Pure qua. Questa estate non passerà se non tieni stretto il pensiero che qualcosa sta cambiando e non riguarda me e te. Questa estate non passerà se non spendiamo le nostre giornate in un porticciolo del New England. E questa voglia di freddo che porto dentro, la voglia di inverno che ho qua giù. Allora prendi il mio surf e vola qui sull'isola che sai già qual è. E prendi il mio surf. Si trasformerà in strade scintillanti, troppo lunghe per portare a una soluzione. Questa estate fermerà il mio cuore quando sarà tutto marrone e sugli steccati appoggeremo le biciclette. E quando le foglie cadono, le giacche a quadri ci faranno vivere così. Allora prendi il mio surf e vola qui sull'isola che sai già qual è. E prendi il mio surf e vola qui da me. Da me, da me. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. A volte abbiamo sogni comuni, in questo caso sognare la serenità, è una cosa che si cerca sempre di conseguire, però siamo sempre in continua lotta con noi stessi, con la società, con tutto. Trovate angosciosa questa canzone? No, assolutamente, no, è un invito comunque a fuggire. L'altro giorno abbiamo fatto un live anche a Radio Belluno, ci hanno detto che... No, non è angosciosa, assolutamente. No, no, non è angosciosa, anzi è un invito un po' a fuggire, se non si può fisicamente, magari anche con la mente, magari anche con l'aiuto di buona musica, e tu in questo caso dai proprio anche un ottimo riferimento a cosa la gente potrebbe ascoltare, anche per ritrovare, come tu giustamente dicevi prima, in alcune frasi una traduzione alchemica, come dicevi anche tu prima, per quella che potrebbe essere in questo caso la propria serenità. Però un discorso alchemico è anche la melodia, usi molta melodia in questo pezzo, molto, molto melodico, non dico all'italiana, melodico alla Giovanni. Ma tu posso dire questo? Che non è italiano. Che non è italiano, è indie-americano, va bene. In ogni caso è molto melodioso questo pezzo, decisamente. E ha le corde, sulle corde, giochi su queste corde qua. Sì. Bene, secondo me. I pezzi più, diciamo, maturi del disco, gli ultimi che ho fatto, questo è anche, secondo me... vabbè, insomma, sono tanti titoli. Ecco. Benissimo, ci comunicano proprio in questo istante che il collega dell'ora successiva, visto il periodo di ferie, non viene, per cui ci regala ancora un po' di tempo per passarla insieme alla musica di Giovanni Marton. Abbiamo ancora... possiamo indagare. Ma possiamo indagare. Possiamo indagare su questo discorso qua della melodia che stavi cercando di allargare. Che negli ultimi brani, quelli più maturi del disco, Sempre su chitarrista stasera. No, a questo punto mi incuriosisce per capire le imitazioni di Bruno. Dibbi. No, nel senso che io potrei imitare Guccini volendo, nel senso che secondo me il disco di questo ragazzo è un bel disco. Nel panorama italiano se ne sentono pochi. Hai capito? Bene. Fare anche i commenti falsi, no? In questo caso proprio anche a voce. Ringraziamo Guccini per questo commento. Ma figurati, grazie. Ti porto una boccia di vino, no? Perfetto, vabbè, adesso continuiamo a seguire. No, dicevi allora il discorso dei pezzi più maturi. Pezzi più maturi. Sì, io ho notato anche su commenti anche gli altri miei collaboratori così che c'è proprio uno sviluppo melodico e nato dal fatto che man mano crescendo ho avuto una padronanza maggiore della voce. Adesso in questo periodo sono con una vocal coach che mi sta proprio mettendo alle strette perché partiamo col tour a gennaio e devo assolutamente essere pronto praticamente. Pronto. A proposito del tour, chi saranno i musicisti questi che abbiamo allora, stasera, guarda, in studio? Ho parlato oggi con il manager dell'agenzia, pare che faremo delle cose molto sparpagliate, nel senso che parlano di cose in acustico, altre cose a band piena. A band piena in teoria saremo in 5, due chitarre, il basso, la batteria che faccio le tastiere. Penso che faremo molti live in 4, solo con una chitarra. Una formazione abbastanza normale, l'arricchiamo diciamo dando un taglio molto acustico, per cui aggiungendo percussioni di cimbali e tamburelli nella batteria e giocando molto sul fatto di avere solamente la chitarra acustica e usando il piano Rhodes come tastiera, cercando di sviluppare i cori, per cui cerchiamo di fare questo, di riarrangiarla in versione acustica un po' indie pop, ecco. Ci vuoi già dare qualche data prossima futura oppure dobbiamo andare a vedere tra poco sul sito? Comunque saranno disponibili, ricordiamo, sul ancora sul sito troverete tutto, sì. Ancora giovannimarton.com, quindi più avanti si troverà tutta quella che è diciamo l'idillio musicale del 2013. Giovanni, un altro pezzo in acustico per poi commentarlo, perché sicuramente ha qualcosa di importante anche questo, quindi diamo spazio anche a questi nuovi sistemi stellari. Sì, diciamo per la nome di cronaca che poverino c'è anche Fabio Cini. Esatto, dobbiamo citarlo. O prima o dopo si citava, ecco. Benissimo, allora ascoltiamo e poi cerchiamo di capire qualcosa di più su quella che è stata anche la collaborazione con Fabio Cini. Qualche tempo fa del Balaton pranzavo così allegramente e corri dove ti porterà il sangue, anche se si trattasse di nuovi sistemi stellari o del confine di tutti i mari. Vado via lontano lontano, come fossi un prigioniero. Semmai ci sarà un altro sguardo su di me, ricorderò la strada dell'Ungheria, cercando di non essere distratto mai, e corro là sperando che mi parli di nuovi sistemi stellari o del confine di tutti i mari, e vado via lontano come fossi un prigioniero. La verità non cambierà, Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Nuovi sistemi stellari featuring di Fabio Cinti, l'abbiamo nominato prima proprio alla chitichella, così senza darne un giusto contenuto al perché di questa collaborazione con Fabio Cinti. Ma parliamo da questi nuovi sistemi solari, sono essere parte dell'universo è sicuramente importante. Ma diciamo che il percorso del disco è una fuga, anche per poi tornare alla fine. Questo qui è il punto del disco in cui si esce dal pianeta, in cui si va a cercare una risposta al di là del nostro mondo, per cui si parla di questa dell'immaginario di questo viaggio, ecco. Certo, quindi non è un guardare dall'alto il nostro pianeta, ma un guardare ancora più in alto, più lontano, a vedere se ci sono nuove dimensioni. Sì, ma questo brano qui appunto non descrive neanche il nostro mondo, va a parte appunto prendendo alcuni espedienti, ad esempio parte dicendo sulle rive del Balaton. Sì, il famoso lago ungherese. Perché la mia famiglia è originaria di Budapest. Ricordavo che una volta da bambino, che era andato da quelle parti appunto con la mia famiglia, ricordavo questa giornata. Ho trovato, diciamo che il testo originale diceva anche delle altre cose, perché nel testo originale, nella seconda strofa, dicevamo anche: devo sbrigarmi altrimenti farò tardi per la messa. E poi ritornello sperando che mi parli di nuovi sistemi stellari. Poi per una questione di metrica con Fabio abbiamo deciso di togliere alcune particine. Però il senso è questo, cioè si parte da queste piccole esperienze. In questo brano sono andato a narrare delle ipotesi sui coinvolgimenti extraterrestri nelle nostre storie comuni, ecco. E poi il tutto finisce comunque con un punto interrogativo e in inglese. Adesso non l'abbiamo ascoltato nella fase acustica, perché c'è anche nel brano Praise che abbiamo ascoltato prima. Sì, è la stessa frase che dice why there's not my word. È così, uno sfogo nelle parti concettuali del disco. Poi sappiamo che nel tuo, diciamo, nel tuo disco sono segnate, oltre a delle tracce appunto in inglese, a delle altre tracce sussurrate in seconda voce, ci sono anche dei pezzi cantati in francese. Ma c'è una ghost track nell'album che segna una fase preliminare del viaggio prima di partire per altri pianeti. C'è questa Parigi in bianco e nero. Tra l'altro è stata fotografata benissimo al primo ascolto dalla rivista Sentire Ascoltare, che l'ha descritta proprio bene anche questo brano, e mi è piaciuto molto vedere che si può comunicare con chi sa ascoltare, no? Come nella canzone Baby di Morgan, ho visto i dischi che si rifiutano di farsi ascoltare dalle orecchie sbagliate. Vedi, no? Caso hai citato Morgan. Maledizione! Hai citato Morgan. Anche se un altro tuo nume tutelare è Battiato, in questo pezzo c'è Battiato, secondo me. Battiato, sì. Così a 360 gradi. Beh, perché c'è Fabio. Fabio è Battiato. Diciamo qualcosina su Fabio, abbiamo detto niente di Fabio. Anche sintetizzatore, anche Fabio. Esattamente. Fabio. È un grosso musicista, sì. Fabio, dobbiamo citare qualcosina di lui, dai. Sì, Fabio Cinti è un mio amico, cantautore che stimo, ha lavorato con Morgan parecchio tempo, adesso mi pare che aprirà alcune date del tour di Battiato, ha fatto un secondo album di recente, abbiamo collaborato a questo mio brano assieme. Questo tuo progetto, questo tuo pezzo praticamente. Discutiamo da tempo di fare un mio album assieme, stiamo valutando ancora, ogni tanto ne parliamo. Bene, è cosa positiva. Bene, sì, allora in Italia. ci ascoltiamo un altro pezzo da Ogni Sguardo Non È Perso, diamo spazio anche al CD, quindi spazio alla traccia numero 7 che si intitola Presi. Senza tempo, quasi fosse la normalità. Dalle campagne sconfinate ai continenti sommersi, brillano le stelle senza tempo. Il gelo dell'universo porta in sé una storia di miliardi d'anni ed altre età. Come non sapessimo che abbiamo vecchi amici in altri mondi e tracce pure sulla luna. Forse è solamente troppo freddo per me restare così lontani dal sole, che abitava questa terra migliaia di anni fa, sapeva chi viveva oltre il cielo. Quando penso ai vari popoli mesopotamici, vedo le loro divinità, spesso disegnate come fossero portatrici di conoscenza. Dall'isola di Pasqua alle piramidi di Giza, percepisci un punto che non torna. Tanto lo sai che più di qualcuno si era sentito in compagnia. Forse è solamente troppo freddo per me restare così lontani dal sole, che abitava questa terra migliaia di anni fa, sapeva chi viveva oltre il cielo. Portami con te e fammi vedere. freddo di questa gente. Sciolgono le mani esattamente come gli angeli in cui credo fermamente. Mi assorbono fisico e corpo in una nube, ma non mi sento morto. La luce degli acquari è già stata inabissata, non c'è bisogno d'attendere ancora. La nostalgia che abbiamo agganciata al DNA è di questo posto, oltre l'atmosfera. E non è più troppo freddo per me restare così lontani dal sole. Ora la verità mi abbraccia con tutto il suo amore. Dello spazio, portami con te e fammi vedere ogni segreto di queste stelle. Nuove città, nuove vite in terre nuove, non mi perdere neanche uno sguardo di questa gente. Blue Time Live. Blue Time. Canzone molto intensa anche questa. Live. Scusate, dovevo far finire la signorina iniziale. Temevo di interromperla. Allora, sì, poi si offende. Esatto. Allora, presi, sempre tratto dal preso dall'album di Giovanni Marton che abbiamo ascoltato molto in maniera approfondita. Ogni sguardo non è perso. Abbiamo sempre presi è la traduzione di una saga TV di Steven Spielberg. Ah, vedi. Taken. Ah, vedi che c'era qualcosa. C'è un riferimento. Comunque volevo dire, abbiamo sentito molto poco parlare i tuoi musicisti, diciamo così, gli eroi che in questa serata hanno deciso di accompagnarti. E che non è stato neanche un male dire. Vabbè. Ma così la potresti dire qualcosa. Sì, sì, potremmo essere una coppia comica da Zelig, quindi è meglio sì, che siamo zitti. E sicuro ci si diverte alle prove, quello sì. Ma alle prove sì, tantissimo. Sì. Ma anche nei concerti, lui sì. che suona il basso, no? Sì, sì, l'ultimo sì. concerto che ho fatto lui è stato uno spasso. Perché? Ma perché ti lancia le battute, è divertente. Ah, benissimo. È divertentissimo. Quindi, Davide, una battuta veloce allora, Davide. No, riferendo a Davide Lucato, bassista. Devo cogliere l'attimo adesso, così su due piedi non mi viene niente. Adesso l'attimo che verrà fra tantissimo, non cogliere niente. Vabbè, casomai coglio facciamo niente. Andare avanti la registrazione ancora per un po', vediamo sì. se qualcosa ne viene fuori. Comunque, come vi trovate a suonare con Giovanni Marton? Adesso che non c'è, che non può ascoltarvi, sto scherzando, è qua davanti a voi. Per me questo è un mondo un po' nuovo, perché io vengo dal rock, dall'hard rock, e quindi è la prima volta che mi cimento in un genere come quello di Giovanni. Quindi anche per me è una sfida che Giovanni mi ha lanciato e io ho preso al balzo, e vedo che comunque sta funzionando bene. No, perché è difficile, voglio dire, dall'hard rock, heavy metal, spostarsi verso questo questo nuovo genere, diciamo, esatto, anche cantautorale, che non è molto, non va a spasso sempre tutti i giorni con le sonorità che ascoltavi tu prima. Quindi, infatti, per citare magari solo un paio di gruppi che ti piacciono, allora, Davide? Beh, partendo dai più classici come Led Zeppelin, Black Sabbath, arrivando a cose più moderne come possono essere i Foo Fighters o i Queen of the Stone Age. Quindi tutta roba molto, sì, molto, molto leggera, sì. Sì, esatto. Benissimo. Allora, due parole anche con Bruno. Bruno Sponchia, che questa sera ha suonato la chitarra. No, per me, anche per me è un mondo, diciamo, penso, insomma, non nuovo quanto lo è per lui, perché comunque il genere cantautoriale, sì, ho sempre fatto quello, però diciamo che nell'ambito dell'elettronica, della new wave, diciamo che prima di conoscere Giovanni non apprezzavo Battiato, adesso mi piace tantissimo, per esempio, e insomma, da un certo punto di vista mi è servito, perché mi ha allargato dal punto di vista musicale, nel senso, appunto, sono riuscito ad apprezzare delle sonorità che prima non è che disdegnavo, però non avevo mai preso in considerazione in questi termini. Poi, finché suoniamo a casa mia, voglio dire, va bene, non devo fare fatica per spostarmi. Perfetto. Oltre Battiato. Beh, no, le mie ispirazioni principali sono De André, Guccini, Bertoli. Che hai imitato prima, è giusto? Vabbè, certo, sì. No, è ovvio. Se mi facesse schifo, sì. Se mi facesse schifo, probabilmente non. Chi può far schifo uno come Guccini, che ha 40 di carriera? No. Cioè, dici, ce n'è, purtroppo, esiste, soprattutto tra i giovani. Guarda, c'è una povertà. C'è una povertà morale e culturale che è una cosa spaventosa. E i motivi di questa povertà sono spiegati nella traccia 8 dal titolo Contro l'ordine. Appunto. Appunto. No, benissimo. No. C'è gente che non conosce Guccini. Molti giovani della mia età non lo conoscono. Peccato. Insomma, certo, sì, no, si parlano assolutamente dei grandi artisti. Certo. E niente, insomma, questi sono, questi gli sono artisti, i tuoi musicisti di riferimento, praticamente. Sì, poi ce ne sono tanti nell'ambito del cantautorato. Anche gente come Max Manfredi, per esempio, che è un cantautore meno conosciuto, che conoscono in pochi, che conoscono in pochi, personaggi come Ivan Della Mea, questa gente qui, insomma, che è appunto meno conosciuta. Certo. Quindi abbiamo sentito quelli che sono i gusti musicali di Bruno Sponchia, che è il chitarrista, appunto, di Giovanni Marton. Poi ancora qualche parola per Davide Lucato, che ci ha spiegato il suo hard rock e heavy metal di provenienza. Giovanni, si citava prima, non ricordo se in diretta o fuori dalla diretta, un nome che per te è molto importante, quello di Matt Costa, questo cantante, cantautore di rock alternativo australiano. Come mai hai preso come riferimento questo personaggio, che non è continente, mi sa. Sì, ho cannato. Benissimo. Allora, è statunitense, scusami. Sì. Chissà perché stavo pensando all'Australia in questo periodo. Vabbè, mi ha preso un canguro. Allora, alternative rock statunitense, quindi il surf rock, come viene anche chiamato. Mi piace chiamato molto da molti anni. E passato questa esperienza di questo disco, comincerò a metterlo in pratica. Ah, hai citato anche Jack Johnson, praticamente, sì, che è uno dei padri di questo genere, assolutamente. Ma anche più a nord, come Matt Pond, PA, i Death Cab, mi piacciono tanto. Bene. Quindi abbiamo capito anche quelli che sono i gusti musicali di Giovanni Marton. Ricordiamo ancora una volta, Ogni sguardo non è perso, adesso diremo disponibile in tutti i migliori negozi di dischi, e mi raccomando, negozi, per essere migliori dovete avere anche il disco di Giovanni Marton. Benissimo. Ok, Ogni sguardo non è perso, il sottotitolo Formulario di estetica stagionale, da ascoltare e anche da leggere, con questo libricino davvero prezioso a corredo del CD, quindi sono 14 pezzi per questo concept album, davvero tutto da ascoltare e riascoltare. Allora, noi ringraziamo Giovanni Marton per essere stato con noi, ringraziamo ancora Bruno Sponchia e Davide Lucato per averlo accompagnato in queste sonorità acustiche, e quindi felice rientro nelle vostre case. Però lasciamo ancora il microfono aperto per Giovanni, che ci fa ascoltare un'altra canzone. Prima merita un breve cappello, prima di lasciarci, Giovanni. Di cosa parli in questa La natura immortale? Il brano con cui si chiude il disco, ed è una narrazione di che cosa sia stato e poteva essere l'estetismo all'interno, per me, all'interno del romanticismo complessivo di tutto questo disco. Semplicemente questo, penso che riesca a sfumare livelli alti da un punto di vista dottrinale, quasi, ecco. Benissimo, sono sempre parole molto che lasciano il segno, e in questo caso diciamo, invitiamo anche gli ascoltatori che questo disco andrebbe ascoltato anche con le affinità elettive di Goethe, no? Che tu citavi prima, perché ha dei passi molto importanti. E allora, ancora grazie Giovanni, grazie per essere stato con noi. Salutiamo ancora una volta Davide e Bruno. E allora, abbiamo detto tutto, lasciamo i microfoni aperti. Sì, ringraziamo anche Alberto, che è il nostro curatore. Alberto Prisco, scusate, stavo dimenticando il nostro curatore. Il nostro curatore della trasmissione, perché si dovrebbe citare anche all'inizio. Esattamente. Ci dimentichiamo spesso, non ce ne voglia Alberto, grande amico. Allora, abbiamo detto tutto? Certo. Quindi diciamo che Blue Time Live può finire qua, ma quasi, no. Ricordatevi sì. Che ogni sguardo non è perso. Certo, ogni sguardo non è perso. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, solito grande caloroso ciao. Vi lasciamo con Giovanni Marton, Ogni sguardo non è perso. Questa si intitola La natura immortale del genere umano. Grazie. E se cerco di capire, mi viene la voglia di cadere, ma il punto è che non sono matto, per cui anche se invento parole, non rimpiango la luce e neanche quella del sole. E non mi è mai piaciuto giocare, e tanto meno la palla. Il mio cervello sta bene lì dov'è, non ha bisogno d'essere lanciato, il confine stabilito c'è. E si vede la normalità in una persona che sai che se ne andrà, ma è l'uomo colui che non si può sviluppare, è estremamente limitato dal mondo. Ogni sensazione ti prende nello spirito, come se una cosa fosse una parola. La bellezza è l'anima, è l'inconscio, è l'amore, è Dio. Così prova a immaginare un buio senza tempo che mi porta poi più in là, dove lo spirito rinasce, e cerco di capire dove sono le risposte di un amore così grande che anche l'anima non piange. Ma tu non ti preoccupare, non devi farti del male, se ti fidi di me saremo sempre solo io e te. Ma tu non ti preoccupare, non devi farti del male, se ci siamo io e te avremo pure il nostro perché. Ogni sguardo non è perso, è raccolto in questa vita come vecchie canzoni negli scaffali di un albergo d'ore. Così una persona è solamente ciò che vedi, ciò che è e ciò che appare. La bellezza è l'anima, senza dottrine morali, la dissolutezza è l'anima.